Volevo chiederti da dove è nata l'esigenza di fare questo film, di fare un film come Alfa. That's a good question. So basically, that's a film that I had in mind for a very long time, even before Titan. And I always thought that I would do it way later in my life. I didn't feel prepared for that film at all, and was waiting to be like somehow more mature, more experienced maybe. And after Titan, I started developing another film, another script, for a bit less than a year. And while writing, I realized that what I was saying was something that I had already said in Titan and Raw. And I was just repeating myself. And creatively, that is very sterile, you know, it's boring. And I really think that you cannot create anything good in comfort. You have to reach for discomfort. And so I just threw everything away and I thought, okay, you've got to come up with something that you've never done before. Immediately, this story that I had in mind that I thought I was going to postpone came to mind. It was extremely, extremely discomforting for me because, as you've seen maybe in my first two films, I talk a lot about the father figure. But when you're talking about the mother figure, it's way, way harder. It's very difficult to talk about this because when we're thinking about a story of emancipation, emancipating from the father figure means trying to emancipate from a need for validation and then trying to find your true self. So you're trying to emancipate from a look from the outside, right? That can be also extremely traumatizing in many ways because, you know, the father figure is very often like transferred to society. If you're looking for validation from your father, then you're looking for validation from the society as well. And this is when you can really lose yourself. But talking about emancipating from the mother figure, we're talking about tearing away from the original fusion, from the symbiotic bond that is still with you and in you. So it's not only tearing away from a figure, it's tearing away from yourself and from a part of yourself. And it means like, who are you after that? You know, you have to completely reinvent yourself. Freud said, kill the father. Okay, we can kill the father, but you can't kill the mother. In order to emancipate, you have to find another way. And the way that I found with Alpha is that for her to become something else, to become a new person, is to become the mother of her mother. And that's how she emancipates from it, without breaking the bond. So that was something that was quite painful to write. E dunque, è un film che avevo in mente da tempo, da prima di Titan, effettivamente, però mi sono sempre reso conto che era un film che avrei fatto, era un argomento che avrei trattato successivamente, quindi con più esperienza, quando sarei stata più matura. Dopo Titan ho cominciato a scrivere un altro film, ci cioè ho lavorato per un po', ma mi sono resa conto che stavo riscrivendo cose che avevo già detto in Titan. Quindi stavo facendo un lavoro sterile in un certo senso e noioso, e perché mi sentivo in un luogo di comfort e in una comfort zone e non puoi scrivere qualcosa di potente quando sei in una comfort zone, devi andare verso qualcosa che non sia confortevole. E allora ho buttato via tutto e ho pensato che dovevo fare qualcosa di completamente nuovo e ho ripreso questo progetto che effettivamente è stato doloroso e difficile da fare perché se ci pensate nei miei film precedenti io ho trattato la figura del padre, in questo film invece tratto la figura della madre, mi confronto con la figura della madre, quindi c'è un confrontarsi estremamente diverso perché il confrontarsi e l'emanciparsi dalla figura del padre è emanciparsi da uno sguardo esterno che talvolta viene infatti messo in corrispondenza della società, potrebbe anche essere quello della società, ma riuscire a emanciparsi dalla madre è molto più difficile perché significa riuscire a strappare quel legame che è una simbiosi e quindi nel momento in cui hai strappato effettivamente quel legame, chi sei? Devi trovare un altro te stesso. Quindi da una parte c'è Freud che dice che parla dell'uccidere il padre e questa è una questione, ma la madre non la puoi uccidere, devi soltanto, cioè devi riuscire a trasformare quello che sei una volta che hai superato la figura della madre. Quindi ho voluto lavorare su Alfa in modo tale che lei riuscisse a elaborare questo suo rapporto con la madre, alla fine diventando in un certo senso la madre di sua madre. E io volevo chiedere perché Alfa rispetto a Omega, che significato ha? Perché è una lettera così antica ed è come se si chiudesse un cerchio. I chose, obviously, as you said, Alpha, her name, because my idea was thinking, how are you born into a world where everybody dies? And what's your future when you're born in a world where everybody dies. So my idea was that I saw her, Alpha, the first one. Is it, Alpha gives also the idea of a threshold, you know, of a cycle starting, you know, so basically life, you know, new life starting. And she's an Alpha who lives in an Omega world, where everything is dying around her. So that's the first reason why I chose this title and this name, obviously. And also Alpha is the name we give to the first star when we discover a new constellation. And the first star is always Alpha. For every constellation you have Alpha, Alpha Centauri, Alpha. And you know that the idea of the constellation is important in the film. Because at the first shot, I mean, after the beginning credits, the first shot is Alpha when she's five drawing, connecting the dots on Amin's arm to create a constellation in between the holes he has in his arm because of the needles. And the first words in the film are "E più bello così," when she does this, because she sees this through her child's point of view. And, you know, as a child, she still manages to create beauty out of ugliness, sadness, and something that screams despair, which is the holes on his arm. And I think it's very important throughout the film, because despite of everything and how dark my films are, I am an extremely optimistic person. To me, all my films have an ending that promises, in a way, a better after, because my character has reached a point where she can handle the truth, you know, and it's particularly true with Alpha. At the end, Alpha is standing in the tempest when her mom is on the floor and is down. She's the only one that keeps standing, and on her face you have all the red dust, which to me symbolize the memory of all those that we've lost and that still remain with us on our skin and under our skin. But she's standing in the tempest. So I think that in this way, at the beginning she transforms this into beauty with the ladybug as well, because he says, "I caught something," and we know he's talking about the disease. And she sees a ladybug. So her eyes transform this terrifying tragedy into something beautiful. And at the end, she stands her ground and she accepts the truth. Alpha, for me, represents hope, and it represents life, standing even in the tempest. Sì, effettivamente Alpha, questo nome, ha ovviamente un significato assolutamente fondamentale. Cioè, la domanda mia del film era: come fai, come nasci in un mondo dove tutti muoiono? Quindi Alpha è, sia come lettera, sia come personaggio, è quella che dà inizio ad un ciclo nuovo. Lei è Alpha in un mondo di Omega, è una nuova vita in un mondo dove tutti muoiono. Tra l'altro Alpha è anche il nome che noi diamo alla prima stella di qualsiasi nuova costellazione che venga trovata, che è tipo l'Alpha Centauri, per esempio. E il discorso della costellazione si vede subito nel film, fin dall'inizio. La prima scena del film che noi vediamo dopo i titoli di testa è Alpha da bambina che unisce i punti delle iniezioni dello zio e ne fa una costellazione. Per prima cosa dice: così è più bello. E lei vede, ha gli occhi di bambina, con i suoi occhi di bambina riesce ancora a vedere della bellezza in qualcuno, in una situazione in cui c'è solo disperazione, c'è solo tristezza. E poi c'è lo zio che le fa vedere che ho preso una cosa. Chiaramente lui si riferisce al virus, si riferisce alla malattia. La bambina invece vede, con gli occhi di bambina, vede la bellezza e vede la coccinella. Ecco, questo fa parte del fatto che i miei film, per quanto possano sembrare dark in un certo senso, io in realtà sono ottimista, e secondo me i miei film sono, cioè il finale del mio film in questo caso, per esempio, è una promessa per un dopo migliore, ed è una promessa che io cerco, a cui cerco sempre di arrivare, quando il personaggio principale del film è riuscito ad accettare la verità, e quindi grazie a quella verità può andare avanti in un futuro migliore. Se ci pensiamo, nella scena finale del film c'è Alpha da sola in mezzo alla tempesta di sabbia, con addosso il rosso della sabbia che le rimane addosso, che è la memoria di quelli che sono perduti ma che ci rimangono addosso in un certo senso, ma lei è l'unica che in mezzo alla tempesta rimane in piedi, e quindi lei può andare avanti oltre quello che ha passato, perché ha accettato quello che è successo.